signore, Bajazette ha bevuto il veleno e lotta con la morte. Bajazette ed Asteria, Asteria Elmira, si distrugge in pianto. No pietà, benché audace fosse il nemico. Andronico virendo con le nuove vittorie e la missale. Ah, si mi negate Asteria? Questo è troppo. No, signore, vi piaghi del padre sacrificio, delle vittorie mie, vi piaghi il merito, ed io un impegno per il suo perdono, la sorte di salvarvi ed il mio trono. In van chiedete, Asteria due volte rea, ed il grand'odio erede di Bajazette, se Bajazette è morto,